30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Le truppe dell'Unione Africana si stanno raccogliendo nei pressi della città portuale di Chisimayo per l'offensiva decisiva contro l'ultima grande roccaforte dei miliziani somali di Al-Shabaab nel sud della Somalia. Il portavoce delle forze di pace, l'AMISOM, Sirius Oguna, ha riferito in un'intervista rilasciata al Daily Nation che le truppe di terra, sostenute dalle forze navali e aeree del Kenya, hanno raggiunto Arbolo, un paese vicino a Chisimayo. Gli Shabaab, ha detto, stanno facendo di tutto per rallentare la nostra avanzata, ma non ci fermeranno. Sappiamo bene che non sarà una passeggiata, ha detto Oguna. Fonti militari hanno inoltre precisato che le truppe del Kenya stanno agevolando l'attacco di terra da sud e l'assalto navale, mentre i contingenti ugandesi e burundesi si muovono da Mogadiscio. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, da Roberto Scaltritti in regia, un saluto e, come avete sentito, ritorniamo ancora una volta in territorio africano che, sebbene in qualche modo sia di fatto sparito dall'orizzonte dei media, è tutt'altro che tranquillo. Operazioni militari proprio nella regione che, così giusto per citare due elementi, è quella del Corno d'Africa, dove quest'estate, peraltro in questo mese di agosto, è scomparsa una figura importante come Meles Zenawi, in una regione che da molto tempo è afflitta da problemi di siccità, oltre che da quelli che vi abbiamo citato. Insomma, parliamo di Corno d'Africa, più tardi lo faremo col commissario europeo alla cooperazione Andris Piebalgs. Ora invece il nostro ospite è Tommy Simons, il direttore generale di AMREF Italia. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Allora, notizie non molto confortanti sul fronte del Corno d'Africa, operazioni militari, grave tensione, ma per lei una prima domanda: voi che vi occupate da 50 anni di sanità e sanità pubblica, ecco, l'acqua è stata al centro delle preoccupazioni e delle tensioni delle ONG, delle organizzazioni umanitarie. Il tema siccità è superato? Ma il tema siccità non è assolutamente superato, sia perché è un problema climatico che perché è un problema strutturale dovuto a fenomeni ambientali, fenomeni demografici. Questi ultimi mesi, anche nel Corno d'Africa, molte zone non hanno avuto precipitazioni e le infrastrutture esistenti sono assolutamente insufficienti per coprire il fabbisogno di acqua per bere, per lavarsi, per l'igiene e anche ovviamente l'acqua per l'agricoltura. Ecco, tutti questi aspetti naturalmente si legano in quello che è il grande tema dello sviluppo. Da una parte l'acqua per bere, ovviamente il primo pensiero di tutti noi, l'acqua per bere di qualità, e qui le implicazioni sul fronte sanitario e l'agricoltura. Questa è stata un'estate che persino nel primissimo mondo, e mi riferisco ai grandi campi di cereali americani, piuttosto che nel nord-est italiano, la crisi dell'acqua ha portato dei raccolti che avranno sicuramente effetti sui costi dei cereali. Che cosa accade sul fronte appunto alimentare nel Corno d'Africa? Beh, molti paesi del Corno d'Africa importano cereali da altre zone dell'Africa e in termini di aiuti anche dagli Stati Uniti tramite il Programma Alimentare Mondiale. E come abbiamo visto anche nell'ultimo periodo di carenza di cereali, di inflazione alimentare, questo si riversa assolutamente sul consumatore. E abbiamo visto negli ultimi anni che in paesi come il Kenya, anche la Tanzania e l'Uganda, l'inflazione alimentare ha raggiunto il 100%, i prezzi sono raddoppiati e la preoccupazione adesso è che in assenza di interventi per difendere un po' il potere d'acquisto dei consumatori, anche questo andrà ad influire molto pesantemente sulla capacità delle famiglie di completare le loro giornate serenamente. L'impatto della crisi economica in Europa è forte, questo a volte ci porta un po' a dimenticare o a sottostimare quelle che poi sono le ricadute in zone del mondo, appunto come il Corno d'Africa. Che cosa accade? Qual è diciamo, il risvolto della crisi economica internazionale in zone già così fragili? Ci sono dei risvolti ovviamente economici sulle esportazioni di questi paesi, ci sono risvolti sull'occupazione. Il Kenya per esempio vive molto intensamente di turismo e il turismo è calato a causa della crisi occidentale. Soffriranno anche gli interventi delle organizzazioni non governative e governative, in quanto ci sono meno finanziamenti disponibili. Noi pensiamo che anche per le nostre attività, già per quest'anno e per l'anno prossimo, complessivamente ci sarà un calo complessivo del 30% degli interventi, se non ci sono delle novità positive, per cui ci stiamo necessariamente anche noi dovendo ridurre gli interventi, ridurre il personale e ridurre il sostegno alle comunità più bisognose. Ecco, AMREF è un'organizzazione che nasce in Africa, nasce proprio nell'Africa orientale, che lo ricordo, Tommy Semios è il direttore generale di AMREF Italia, ma che è un'organizzazione che, se non sbaglio, dà lavoro a qualcosa come 700-800 persone, ma in grandissima parte sono africani. Il nostro organico in Africa quest'anno ha superato le 1000 persone, sono quasi tutti africani, perché la nostra politica è di utilizzare personale locale che rimane in questi paesi, ma sicuramente ridurremo l'organico. Poi sappiamo che nelle famiglie africane un posto di lavoro ne assiste altre 8, 10, a volte 15 persone, per cui l'impatto diretto della riduzione dei nostri interventi su tantissime famiglie, nuclei familiari e persone abbinate ha un impatto molto importante al di là della mancanza degli interventi sul campo. Ecco, ricordo a proposito intanto anche il sito di AMREF, www.amref.it, così potete magari approfondire i progetti e il lavoro svolto. Vorrei concludere con Tommy Semios con una domanda che anticipa un po' i temi, appunto le priorità. In un tempo di crisi, di ristrettezze, le scelte sono più che mai essenziali. Quale sarà dunque la vostra priorità? Quale diventa la vostra priorità per gli interventi nel Corno d'Africa in tempi comunque di ristrettezze per tutti? Beh, noi siamo un'organizzazione che si occupa di sviluppo a lungo termine, per cui continueremo a focalizzarci su quegli interventi che comunque porteranno benefici a lungo termine in termini di formazione, di realizzazione di infrastrutture che durano nel tempo. Dovremo misurarci con la realtà che ci si presenterà davanti e anche sulle realtà dovute all'insicurezza nei paesi dove lavoriamo. Sappiamo anche che oltre alla crisi somala, le tensioni in Sud Sudan e tra il Sud e il Nord Sudan continuano a essere molto intense e anche il Kenya si sta avvicinando. Nel prossimo marzo ci saranno delle elezioni presidenziali e ci sono già dei forti segnali di tensioni interne, per cui dovremo anche tener conto delle necessità, delle emergenze che possono porsi nei prossimi mesi. Grazie a Tommy Semios, lo ricordo, direttore generale di AMREF Italia. Dunque una lettura anche delle difficoltà, della crisi, delle priorità che vanno comunque fatte. Di questo, subito dopo gli aggiornamenti Perché in Viaggio, parleremo con il commissario europeo alla cooperazione Andris Piebalgs. Vi anticipo solo un dato: sono 50 miliardi di euro l'impatto dell'intervento dell'Unione Europea appunto nel mondo, una cifra enorme distribuita per lo più attraverso organizzazioni, attraverso sovvenzioni e finanziamenti. Insomma, le scelte fatte a Bruxelles possono davvero condizionare, intervenire sulle situazioni. Ci risentiamo tra qualche momento. 30 minuti in cronaca. Le tensioni in Corno d'Africa, dunque il Sud Sudan, avete sentito anche nelle parole di Tommy Semios, direttore generale di AMREF Italia, di come sia in corso una trattativa per trovare un accordo sulla definizione dei confini tra il Sudan e il Sud Sudan, stato neonato che vi abbiamo raccontato nel corso dei suoi primi passi davvero complicati. Il tutto in un contesto, quello del Corno d'Africa, segnato dalle crisi, dalle tensioni, dalle zone di conflitto, ma anche dalla siccità. Bene, questa sera noi continuiamo a parlare dell'azione e della cooperazione internazionale nel Corno d'Africa, ma non solo, lo facciamo con il commissario europeo alla cooperazione, Andris Piebalgs. Andris Piebalgs è lettone, il suo dicastero all'interno dell'Unione Europea è di primaria importanza. Ricordiamo che l'Unione Europea mobilita oltre 50 miliardi sul fronte, appunto sul pacchetto della cooperazione allo sviluppo. Allora, la prima domanda che facciamo al commissario Piebalgs è questa: è giusto spendere tanto denaro pubblico europeo per la cooperazione internazionale in tempo di crisi? Ci sono almeno tre buone ragioni per continuare a investire i soldi pubblici europei nella cooperazione allo sviluppo. La prima è che, per quanto la crisi che investe il nostro continente sia acuta, non dobbiamo dimenticare che l'Europa resta una delle aree più ricche del pianeta. La solidarietà nei confronti delle persone più povere, quelle che non riescono a mangiare a sufficienza o che magari muoiono perché non hanno accesso all'acqua potabile o alle condizioni minime necessarie alla sussistenza. La solidarietà, dicevo, resta un valore in sé che dobbiamo cercare di perseguire. La seconda ragione è quella che ci impone di riflettere sul processo di globalizzazione. Quello che accade intorno a noi nel mondo ci riguarda sempre più direttamente. Se prendiamo per esempio il caso attuale della Siria, non possiamo non capire quali siano le implicazioni del nostro intervento o del nostro non intervento. La necessità di sostenere la popolazione siriana, i profughi interni o esterni al paese, con il nostro aiuto umanitario, risponde a un'urgenza che ritroviamo ogni volta che c'è gente che soffre gli effetti di una guerra. La terza ragione è che, se riusciamo a rompere il circolo vizioso della povertà, ne trarremo grandi vantaggi, soprattutto noi europei. Siamo un continente di esportatori e dunque combattere la povertà, in Africa o altrove, significa creare posti di lavoro all'interno dei nostri confini e assicurarci dei precisi vantaggi. Dopo anni di lavoro, le politiche europee, non solo per la cooperazione, sono strettamente connesse, potremmo dire ancora, con l'accesso alle risorse. L'acqua è in primo luogo un fattore chiave per lo sviluppo, ancora e direi più che mai sollecitata e è divisa tra gli interessi crescenti. La popolazione del pianeta cresce ormai verso quota 8 miliardi, arriverà probabilmente a 9 miliardi nel 2050. Allora, sul fronte dell'acqua, l'Europa che ruolo può svolgere? L'Unione Europea è il primo donatore al mondo in termini di cooperazione e aiuti allo sviluppo. Stiamo parlando di oltre 50 miliardi di euro investiti attraverso programmi di finanziamento diretti e indiretti attraverso le reti delle organizzazioni non governative. Sul fronte dell'acqua, in particolare, abbiamo preso un impegno di lungo periodo e ci siamo impegnati a una spesa di circa 600 milioni di euro ogni anno per favorire l'accesso all'acqua potabile. Sono milioni in tutto il mondo le persone che, grazie a questi progetti, sono in grado di accedere all'acqua potabile e ai servizi sanitari connessi con la creazione delle infrastrutture di base. Attraverso questi progetti non portiamo solamente l'acqua da bere, ma proteggiamo le persone dall'aggressione delle malattie. È un impegno che riguarda l'acqua, ma evidentemente anche la sanità pubblica e la salute delle persone. I prezzi degli alimentari sono ancora una volta in crescita. Qual è il ruolo dell'Europa nell'affrontare quella che potrebbe diventare davvero una nuova stagione calda dei prezzi delle derrate alimentari? Quello dei prezzi dei prodotti alimentari di base è senza dubbio un tema estremamente delicato e di grande attualità. Noi abbiamo istituito un sistema di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli di base che ha già dato qualche risultato, perché ci ha permesso di impedire i peggiori fenomeni di speculazione che si sono invece verificati qualche anno fa in occasione delle precedenti fiammate sui prezzi del cibo. D'altra parte, le ragioni che innescano questi fenomeni critici di impennata dei prezzi del cibo, soprattutto legati alle calamità naturali che colpiscono diverse parti del mondo, non hanno fatto che moltiplicarsi negli ultimi anni. Per questo l'Unione Europea ha portato avanti investimenti massicci nel settore dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, soprattutto nell'area africana del Sahel e nel Corno d'Africa. Di certo posso confermarle che la sicurezza alimentare è il tema centrale del nostro sforzo di cooperazione. Affrontiamo alcune delle principali crisi internazionali. Nello scorso mese di luglio a Tokyo lei ha partecipato alla conferenza sull'Afghanistan. Quale può essere il ruolo dell'Europa? Quale partnership con l'Afghanistan mentre la struttura militare occidentale di fatto lascia progressivamente il terreno? Noi siamo già un partner strategico per l'Afghanistan e io le prometto che continueremo ad essere il principale alleato nel sostegno economico ai programmi umanitari di crescita economica e sociale per quel paese. Il tutto a patto che il governo di Kabul continui a compiere tutti i passi necessari per imporre il pieno rispetto della legge, il rispetto dei diritti umani e, cosa di grande importanza, che combatta con tutti i mezzi a disposizione la piaga della corruzione. Noi vogliamo lavorare con il governo afghano, ma per farlo è indispensabile che Kabul faccia tutto il possibile per combattere la corruzione. Siamo a fianco del popolo afghano. Vogliamo continuare ad esserlo, a patto che alcune condizioni siano rispettate. Commissario Piebalgs, recentemente voi siete stato molto attivo in Africa orientale, ma anche in Africa centrale, dal fronte somalo, il Kenya, il Sudan contro il Sud Sudan, insomma molte crisi locali, cui si è aggiunta anche nelle ultime settimane la scomparsa di Meles Zenawi, il primo ministro dell'Etiopia, un vero protagonista della stabilità regionale. Allora, ci può descrivere qual è la politica, l'azione politica dell'Unione Europea in questa parte del mondo? L'Etiopia è senza dubbio un paese che svolge un ruolo centrale all'interno dell'Africa orientale. Devo dire che fino ad oggi la transizione imposta dalla scomparsa del primo ministro Meles Zenawi è stata gestita con grande ordine e, almeno fino ad ora, in maniera quanto mai rassicurante. Il vice primo ministro incaricato ha assunto regolarmente i poteri e questo ci rassicura sul fatto che tutti i programmi che l'Unione ha avviato con l'Etiopia saranno portati regolarmente avanti. Visto il ruolo svolto dall'Etiopia nella lotta all'estremismo nel Corno d'Africa, è importante che i programmi che vanno in questa direzione siano portati avanti e implementati. Recentemente, proprio all'interno della Somalia, abbiamo registrato qualche segnale positivo, così come alcuni spiragli si sono aperti anche nella lunga vertenza per la definizione dei confini e delle aree petrolifere contese tra Sudan e Sud Sudan. Per questo posso dire che la nostra strategia nel Corno d'Africa non richiede degli emendamenti particolari, perché siamo già impegnati a fondo sia sul fronte dei programmi per l'affermazione della pace e della sicurezza delle popolazioni, sia su quelli della sicurezza alimentare e, naturalmente, dell'accesso all'acqua. Nello scorso mese di maggio, commissario Piebalgs, lei ha accolto i ministri europei per la cooperazione allo sviluppo per condividere quello che è il nuovo orientamento della politica dell'Unione attraverso la cosiddetta Agenda for Change, dunque l'agenda per il cambiamento. Ci può spiegare meglio di che cosa si tratta questo progetto? Quale approccio, quale prospettiva prende sulla base appunto di questo nuovo progetto la politica europea di cooperazione e sviluppo? In questi giorni a Bruxelles abbiamo raccolto molte delegazioni dell'Unione Europea che sono al lavoro sul processo di implementazione di quella che abbiamo chiamato l'Agenda for Change, l'agenda per il cambiamento della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo e sostegno delle emergenze internazionali. Stiamo lavorando sulla strategia del settennato 2014-2020, che si dovrà concentrare in maniera molto stretta sulle priorità dello sviluppo, che sono cibo e accesso alle risorse alimentari, accesso all'energia, buon governo e rispetto dei diritti civili. Posso confermarle che siamo molto concentrati sui settori in cui possiamo assicurare un reale impatto, tenendo presente anche quelli che sono i paesi che possono davvero rappresentare dei catalizzatori di cambiamento. Voglio poi aggiungere che siamo anche molto concentrati sui risultati. Non partiamo dall'entità dello stanziamento che siamo in grado di mettere sul terreno, ma da quello che vogliamo ottenere in ciascuno specifico programma. Infine, voglio ribadire la nostra volontà di lavorare a stretto contatto con i nostri partner storici, che significa ovviamente in primo luogo gli Stati membri dell'Unione, ma anche gli altri protagonisti della cooperazione, con in primo luogo gli Stati Uniti. Bene dunque, grazie ad Andris Piebalgs, lo ricordo, commissario europeo alla cooperazione allo sviluppo. Grazie naturalmente anche a Tommy Simmons di Amref Italia per essere stato con noi stasera. Stasera che 30 minuti in cronaca conclude il suo percorso per questa fase. Dalla prossima settimana si continuerà a parlare di queste tematiche del mondo, dei luoghi, insomma, magari lontano dall'attenzione dei media, ma che sono importanti e che riteniamo giusto raccontare e condividere con i nostri ascoltatori. Quindi dalla prossima settimana, in questa fascia oraria, Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. I temi dunque restano. Da parte mia un ringraziamento a tutti voi che siete stati per molto tempo all'ascolto di questo programma. Un saluto, naturalmente, un a risentirci come sempre su Radio 24.